You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena a Radio 24. Questa sera parliamo di musica, perché l'Italia cambia anche grazie all'apporto di italiani che hanno radici altrove e che sono sempre presenti anche nel panorama musicale e in televisione. È il caso di X Factor, che quest'anno fra gli altri concorrenti ha anche espresso una parte di una comunità che è presente in Italia. Abbiamo come ospite questa sera, indovina chi viene a cena, una delle concorrenti di X Factor di Sky, Camille Cabaltera. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi. Camille è una cantante di origini toscane e filippine, che poi ci racconterà, ne parleremo. È una cantante molto dotata, che ha stupito tutti i giudici nel suo provino. E allora sentiamolo proprio questo provino. You can make it stand up straight. That's what they always say. Listen to my words and I know you're mistaken. But is it worth it? Feel the painful thing. Is it worth it? All this cause again. Poi Camille è uscita proprio la settimana scorsa, provocando una vera e propria reazione popolare, con tanto di fischi a Gianni Morandi, reo di averle preferito la compagna di squadra Rita Bellanza. E i tre giudici, dopo averla riempita dei complimenti, hanno deciso di eliminarla. Camille, innanzitutto, tornata alla tua quotidianità, come hai preso questa eliminazione? Sinceramente penso di essere quella più tranquilla in tutta Italia in questo momento, peccato soltanto per l'inedito, perché era tutto pronto, però comunque si va avanti. Perché non hai potuto cantare il tuo inedito. Ne parleremo della tua musica, dei tuoi progetti, ma so che, visto che questa è una cena, un invito a cena, ci hai portato un piatto a te caro. Sì, è il mio piatto preferito. È il mio piatto preferito da quando penso sono nata, ed è il pollo fritto. Pollo fritto che cucina tua mamma, immagino. Sì, cucina la mamma, che lo potete, non so se l'avete presente, ma si vedono anche nei film americani il pollo fritto, le cosce, eccetera. Insomma, io mi aspettavo un piatto toscano, al limite delle tue origini filippine, invece ci hai stupito. Sì, ma alla fine il pollo fritto è molto famoso nelle Filippine, anche se non penso sia di origine filippina. Quindi è un piatto che fa la mamma, che appunto è di origini filippine, e che con te è arrivata in Italia parecchi anni fa. Quanti anni avevi quando sei arrivata? Tu hai appena compiuto 18 anni. Sì, 18, e avevo penso 7-8 anni, quindi circa 10 anni sono passati. Quindi eri già grande, ti ricordi la tua vita sì. Prima? Me lo ricordo benissimo, le Filippine. Torniamo all'esperienza a X Factor, che immagino deludente appunto alla fine, però mi sembri soddisfatta, a parte l'inedito. Sì, sì, sono soddisfatta comunque di tutto. E mi manca un sacco il loft e tutti i concorrenti. Diciamo, mi manca la vita di X Factor, ora che sono tornata nella realtà, diciamo, i ritmi sono più normali, prima erano diciamo difficili, però comunque era divertente. Sei tornata anche a scuola? Sì, sono tornata a scuola, faccio il liceo musicale al liceo Forteguerli di Pistoia. Quindi una vita tornata ai ritmi usuali. Il rapporto con gli altri concorrenti com'era? Il rapporto con gli altri concorrenti era molto... cioè avevamo un'armonia tutti insieme, abbiamo trovato un equilibrio di stare, diciamo, in casa tutti insieme, anche se ci conoscevamo a malapena. Però sinceramente, ora che ci penso, il tempo è passato così veloce, sembra che io sia vissuta con loro da tanti anni, sembra che li conosco da tanto in questo periodo. Con chi hai legato di più? Sì. Con chi ho legato di più? Penso Rita e Lorenzo, perché alla fine, sì, Rita Bellanza e Lorenzo Di Citra, perché alla fine, quando, diciamo, avevo bisogno di persone con cui parlare, parlavo con loro. E il tuo rapporto invece con Levante, che è il giudice che ti ha fatto fare questo percorso, com'era? Levante era come una sorella maggiore per me, perché ha sempre tipo tifato per noi, era molto anche affettuosa con noi underdonne, e lo ero anch'io per lei. Dammi un aggettivo per il tuo giudice e per gli altri giudici. Levante è carina, diciamo, non solo esteticamente ma anche emotivamente. Fedez è simpatico, diciamo che gioca un sacco anche con gli altri concorrenti. Mara Maionchi è molto spontanea. Manuel, anche lui simpatico, perché sembra così, diciamo, pauroso, diciamo, della televisione, perché fa un sacco di commenti negativi, però alla fine penso che lui segue molto la sua squadra, e l'ho visto sempre in sala prove, anche senza telecamere. Alla fine Morandi ha scelto Rita ed è stato molto fischiato anche. Tu non sei rimasta un po' stupita da questa scelta? Sinceramente, io mi aspettavo che Morandi scegliesse Rita. Perché? Però, semplicemente perché hanno uno stile molto simile. Rita canta in italiano, quindi penso che cantare in inglese io e Gabriele era uno svantaggio per noi due. E quindi quando ha scelto Rita, in quel momento non avevo sentito bene, diciamo, i fischi, anche se erano così forti alla fine quando l'ho rivisti. Però era troppo, diciamo, occupata a dire Rita, forza e coraggio, perché ormai sei l'unica delle underdonne. C'è chi, anche il tuo giudice Levante, ha parlato di un voto un po' opaco. Manuele Agnelli ti aveva molto lodato durante le tue esibizioni e aveva criticato Gabriele, poi invece ha scelto lui. Come mai? C'era della strategia secondo te? Ma sinceramente in quel momento non ho pensato per niente alla strategia, me l'hanno detto dopo, e cioè l'ho sentito anche dopo da Levante quando ha commentato, diciamo, serata, com'è andata. Però penso che, come ha detto anche Manuel, ha pensato, diciamo, in prospettiva chi potrebbe andare meglio nella discografia italiana. E tu pensi di essere sfavorita nella discografia italiana? Sinceramente lo pensavo anch'io. Perché ovviamente, diciamo, anch'io canto in italiano, ma il mio forte è l'inglese. Però ripensandoci, c'è sempre, diciamo, una prima volta, quindi si possa comunque provare. Poi se non va bene, non va bene. No, cioè alla fine è soltanto l'inizio questo del mio percorso. Ci fermiamo brevemente, torniamo tra pochissimo con Camille Cabaltera, una dei concorrenti del Talent X Factor. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siamo questa sera, indovina chi viene a cena, con Camille Cabaltera, una delle cantanti di X Factor, di origini filippine, toscana. Camille, ci stavi raccontando che il tuo sogno è continuare a percorrere questa strada. Ma quando hai iniziato a studiare musica? Tu suoni anche il pianoforte? Sì, diciamo che ho iniziato a cantare quando avevo 3 anni. Ma ho studiato lirico e pianoforte, diciamo, circa 3-4 anni fa ho iniziato, diciamo, quando sono entrata al liceo musicale ho iniziato a studiare lirico e pianoforte. Ci raccontavi che sei arrivata in Italia intorno ai 7-8 anni, quindi una decina d'anni fa. Com'era la tua vita nelle Filippine? Cosa ricordi? Per me, diciamo, la mia vita nelle Filippine, da quel che mi ricordo, era tutto, diciamo, era una cosa fiabesca, secondo me, perché ovviamente ero piccola, quindi vedevo le cose molto grandi. Infatti questo gennaio sono ritornata, gennaio scorso, sono ritornata nelle Filippine e mi sembrava tutto piccolo, perché ovviamente me lo ricordavo tutto grande perché ero ancora piccola, però diciamo il ricordo nelle Filippine è ancora molto vivace, mi ricordo diciamo un sacco di ricordi e non vedo l'ora di rivisitarlo di nuovo. Voi tornate spesso? Tu sei tornata spesso? No, spesso no, sinceramente in questi 10 anni ci sono ritornata soltanto una volta e sono restata per un mese e basta. E conosci la lingua? Riesci a parlare con i tuoi parenti lì? Sì, cioè parlo filippino benissimo, non ho alcun problema nel comunicare nella mia lingua. Che tipo di approccio invece è stato quello con l'Italia quando sei arrivata? Quando sono arrivata mi sembrava, era freddo, quindi, perché nelle Filippine è molto caldo, quindi per me era molto freddo, anche se era primavera, per me era molto freddo. E la mia impressione mi sembrava tipo, cioè, non lo so, perché anche se non sapevo ancora parlare tanto la lingua, visto che ero molto piccola, comunque riuscivo a comunicare con la gente, diciamo, essendo piccola, con dei gesti, poi non è che avevo bisogno di parlare così tanto, però pian piano ho conosciuto la lingua e ho imparato con la scuola, cioè anche praticando. Quindi tu sei stata introdotta a scuola senza conoscere l'italiano, sarà stato difficile? Sì, sono andata a scuola in terza elementare. Non avevo così tante difficoltà, se non mi ricordo male. Cioè, anche se non conoscevo la lingua, più o meno riuscivo a comunicare con loro con delle parole chiavi. Poi, i compagni ti hanno aiutato o ti ricordi diffidenza, pregiudizi? No, mi hanno aiutato un sacco i miei compagni di classe. E mi sono divertita anche un sacco con loro, mi ricordo mi hanno fatto anche cantare in terza elementare, quindi. E gli insegnanti, c'è stato un insegnante importante per te? L'insegnante, diciamo, quella più importante per me, diciamo, penso sia il mio insegnante di canto lirico ora. Che è un tuo modello, diciamo? Sì, diciamo che con lei ho imparato un sacco di cose e mi ha insegnato, diciamo, come cantare anche col moderno, però comunque con la tecnica giusta, diciamo. Noi ti abbiamo visto ai provini accompagnata da due persone, da due donne. Sono tua mamma, immagino? Sì, mia mamma e mia sorella. La tua famiglia è composta da loro? Sì, poi c'è anche mio fratello che non è venuto perché aveva lavoro quel giorno. Quindi per te la figura centrale della tua vita è tua mamma? Sì, è la mamma. Posso chiederti che lavoro fa tua mamma? La mamma è una commessa in un negozio a Firenze. E immagino abbia lasciato le Filippine, siate venuti qui per una questione anche economica. Più che altro era perché quando avevo 5 anni mi è morto il padre, e diciamo che tutti i parenti erano qui in Italia, quindi eravamo gli unici rimasti lì, quindi alla fine abbiamo deciso di unirci alla famiglia. E siete arrivati subito a Pistoia? Sì, subito a Pistoia. Questa Toscana come ti ha accolto? Ci sono mai stati momenti in cui noi parliamo di pregiudizio, di integrazione, di identità? Ci sono stati mai momenti di difficoltà? Questo ovviamente sì, diciamo pregiudizi, però più che altro diciamo mentre per la strada cammino ci sono persone che ti prendono in giro, però alla fine cioè, basta ignorarli, perché alla fine cioè, mi dispiace anche per loro che hanno questa mentalità banale anche nel senso da bambini, però cioè, comunque con tutte le scuole che mi sono trovata, con tutte le persone che ho conosciuto mi sono trovata sempre bene. Tu hai la cittadinanza italiana ora? No, la cittadinanza italiana. E questo rappresentare, perché è così, in fondo anche i ragazzi di seconda generazione, no? Persone che sono italiane ma che hanno radici da qualche altra parte perché magari i genitori sono stranieri o perché come te siano nati in un altro paese, può essere un modello per tanti ragazzini molto giovani che possono guardare X Factor e identificarsi con persone come te. Questa cosa ti rende orgogliosa o ti pesa? Sì, no, secondo me mi rendo orgogliosa ovviamente questo fatto, anche perché secondo me in Italia, cioè non, come diciamo vediamo in America, no? Ci sono un sacco di etnie diverse, quindi ormai è un miscuglio, quindi non sono, cioè ormai capiscono le culture degli altri, anche se diciamo i comportamenti diversi degli altri e anche diciamo le facce degli altri che sono diversi da loro, però diciamo qui in Italia non è così diffuso, diciamo, anche se pian piano stiamo arrivando lì, quindi secondo me introdurre diciamo delle facce che non sono diciamo italiane in televisione sono molto, diciamo, servono anche alla crescita degli altri per conoscere le altre culture che non sono la loro. E tra l'altro è una tendenza sempre più forte questa di vedere ragazzi con origini straniere nei talent, e quindi si apre sempre di più, come è normale, l'Italia dello spettacolo anche all'Italia che cambia. Tu quando eri ragazzina invece qual era il tuo modello? Non c'erano molte figure di origine straniera in televisione? Sì, sinceramente non c'erano tanti, diciamo, figure straniere in televisione, però comunque, cioè, non me ne sono mai accorta così tanto, perché alla fine ero piccola, non è che seguivo tanto, diciamo, i social oppure, diciamo, il mondo, diciamo, della celebrità. E adesso che sei tornata alla tua vita normale, in attesa del successo che sicuramente arriverà, ti sarai confrontata appunto sui social con l'effetto che hai fatto sul pubblico. Che cosa ti ha stupito di più? Mi ha stupito un sacco, diciamo, le persone che dicevano che non dovevo uscire, che dovevo rimanere, perché io sono entrata nel loft dopo i bootcamp. E i commenti, cioè, dei bootcamp erano molto negativi, hanno detto che non dovevo sedermi, ora la squadra è finita di Levante, non dovevo esserci io, però alla fine penso di aver cambiato idea alla gente quando ero ai live. Levante ha sempre lodato di te la tua laboriosità, la tua disciplina. Sei effettivamente sì. Una persona molto disciplinata? E quanto conta nel successo, nel raggiungere un obiettivo questo? Penso che la disciplina è una delle cose che devi avere per forza per riuscire a lavorare soprattutto in questo diciamo mestiere. Però, cioè, sinceramente non ho mai pensato di essere così disciplinata da poter, diciamo, cioè, che Levante me l'abbia anche detto, anche le altre persone, però non lo so, cioè, continuerò così. Allora. Tu sai che è uno degli stereotipi più resistenti che riguardano la comunità filippina in Italia è quello che sono delle persone molto laboriose, molto disciplinate. Sì, non sei riuscita a spezzare questo stereotipo. Però alla fine penso che uno stereotipo anche, diciamo, è un buon stereotipo, penso. Positivo, forse una qualità più che uno stereotipo comune alla vostra modo di pensare o alla cultura che vi è stata trasmessa, che anche in famiglia forse hai respirato. Sì, forse sì, o forse anche perché è anche un lavoro che voglio fare io e quindi, cioè, diciamo, era tutto divertente, ma comunque sapevo come affrontarlo con l'impegno e determinazione. Chi vincerà X Factor? Sappiamo che tu fai il tifo per Rita Bellanza, per affetto, però chi pensi che potrà vincere? Diciamo che sinceramente voglio un sacco che vinca, diciamo, le underdonne, perché Levante comunque penso che se lo merita, diciamo, con come ho lavorato con lei non ho mai lavorato con altre persone. E quindi per quello c'è tipo per Rita. Le oltre 7.000 isole che compongono le Filippine hanno una cucina caratterizzata da una forte presenza di prodotti di mare. Cucina che riesce ad armonizzarsi con le varie influenze avute nel corso dei secoli, cinese, spagnola, malese e indiana, pur continuando ad avere una propria caratteristica. Alla base della cucina filippina troviamo il riso, che fa da contorno tanto a piatti di pesce quanto a quelli a base di carne. È diffusa anche la pasta glutinosa, che proviene dalla Cina, così come cinesi sono i classici involtini primavera. Di pari importanza è il latte di cocco, che troviamo nella preparazione di quasi tutti i piatti. Arrotonda, infatti, il gusto terroso delle anguille,